Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno e ben arrivati a Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Sono Enzo Argante, il traghettatore, e vi dico subito che oggi è la giornata del Non ti scordar di me, operazione Scuole Pulite. Questa è la 13ª edizione di questa giornata di volontariato, che serve a spingere le persone a, come dire, a dare vivibilità e qualità agli edifici scolastici. Non ti scordar di me premierà poi dopo le immagini più significative di questa giornata, di questo 12 marzo, e le foto saranno poi inviate entro il 1 aprile a questo indirizzo che vi do: non ti scordar di me @legambiente.it. Tra tutte le scuole che avranno inviato il materiale, poi ci saranno quelle ovviamente scelte da una giuria e saranno premiate durante la giornata Non ti scordar di me. Al Green Social Festival, che chiude oggi, Obiettivo Lavoro ha presentato un'esperienza importante e interessante nel campo della mobilità sostenibile. Si chiama Allunghiamo i nostri chilometri. Ce ne parla Marco Maggi. Buongiorno a tutti, buongiorno Enzo. Allunghiamo i nostri chilometri è un'iniziativa che abbiamo messo in campo da 2 anni ormai a questa parte, quindi ha già una storia, un consolidato. Ci siamo posti il problema di affrontare la crisi mantenendo livelli di servizio, di mobilità e di interazione fra le imprese che fossero adeguati, cioè di non perseguire la riduzione dei costi riducendo le azioni dell'impresa. Incontrare i clienti è importante, incontrarsi fra imprese è altrettanto importante. Quindi abbiamo cercato modi responsabili e sostenibili per mantenere la mobilità facendola costare di meno per le imprese e per l'ambiente. E la strada c'è, e la strada si chiama responsabilità personale, ma si chiama, o si può chiamare anche incentivazione personale, perché il merito dei lavoratori, dei piloti, di coloro che guidano un'auto aziendale in maniera ecologicamente sostenibile va anche riconosciuto a nostro modo. E voi l'avete Noi fatto? In che modo l'avete fatto esattamente? L'abbiamo realizzato in collaborazione con Quattro Ruote, con il direttore allora Mauro Tedeschini. Abbiamo fissato per ciascun utente di auto aziendale di Obiettivo Lavoro, sono 176, abbiamo fissato la media ottimale di consumo desunta dalle prove del mensile Quattro Ruote, appunto. I guidatori che avessero realizzato consumi migliori, quindi avessero percorso più chilometri con un litro rispetto alla media di Quattro Ruote, quindi da qui allunghiamo i nostri chilometri, avrebbero ricevuto in busta paga il 50% dell'importo in carburante risparmiato. L'altro 50% sarebbe andato a riduzione dei costi aziendali. Questo meccanismo ha funzionato molto bene. Vi basti sapere che prima di questa policy auto, soltanto 20 auto su 176 in azienda avevano una percorrenza migliore rispetto alla media Quattro Ruote. Adesso quelle che hanno una percorrenza migliore sono 150, quindi un salto radicale che vale per tutti i modelli, dalle 2000 station wagon fino alle punto multijet 1003. Mediamente abbiamo realizzato risparmi dell'ordine del 23-25% sul consumo, che si traduce in una percorrenza ancora maggiore in termini di chilometri per litro, quindi qualcosa di assolutamente radicale, il che dimostra che al di là di tutte le innovazioni tecnologiche che si possono mettere in campo, dall'auto elettrica a tante altre modalità. Alla fine è una questione di testa, vero? Alla fine è una questione di testa, infatti grazie. Guidare con la testa piuttosto che non coi piedi è sicuramente qualcosa che noi possiamo fare subito. Bene, a prescindere da qualunque alibi. Grazie Marco Maggi, complimenti, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Un museo della mente che promuove il coinvolgimento di studenti e insegnanti, o ancora la creazione di una piazza virtuale punto d'incontro fra i soggetti attivi. Give Mind a Chance è un progetto di Fondazione Accenture, progetto Itaca, che serve a favorire l'incontro, domande e offerta lavorativa per le persone che hanno problemi di salute mentale. Il concorso scade martedì, potete scrivere ancora e proporvi a www.idea360.it, 60 è a numero. Finiamo qui per questa puntata. Vi ricordo che ferribotti@radio24.it è l'indirizzo a cui potete scrivere per segnalare le vostre iniziative no profit e di responsabilità sociale. Ringraziamo anche Anita Panizza in redazione e in regia Peter Bescapè. Buona giornata.